Mercato Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Spero che Fassina rimanga. Se non rimane, però, è un problema suo, non nostro. Cioè, noi dobbiamo comunque portare avanti il paese. Non è possibile che, come dice ieri Fassina, abbiamo perso le elezioni in Val d'Aosta e in Trentino. Hanno votato 3 comuni capoluogo. In 2 abbiamo vinto noi, in 1 si fa il ballottaggio col 45%. Questo è un Renzi abbastanza incavolato a proposito delle defezioni del PD, cari ascoltatrici e cari ascoltatori. Si è nato Pippo Civati, lo sapete, e adesso anche Fassina, Stefano Fassina, sembra meditare di mollare, insomma, di dare l'addio al PD. Renzi ha detto va via, vabbè, è un problema suo, ma ricordiamoci che cosa aveva detto il 4 gennaio, durante le feste di Natale addirittura, 4 gennaio del 2014, Renzi a proposito di Fassina. So che è allergico alla parola rimpasto, però Fassina. Fassina chi? Che poi dopo si era dimesso da sottosegretario all'economia, vi ricordate? Insomma, lasciamo il PD ai propri travagli, ne parliamo già abbastanza spesso. Stasera parleremo meno di politica, invece ci soffermeremo naturalmente con degli aggiornamenti sulla nuova scossa di terremoto in Nepal. E poi direi che uno degli argomenti centrali di questa sera è la scuola, perché l'incontro che c'è stato tra i rappresentanti sindacali degli insegnanti e i rappresentanti del governo non è andato a buon fine, sembrano piuttosto insoddisfatti i sindacati, e sentiremo qui uno dei loro rappresentanti più tardi qui a Effetto Note per capire quali sono ancora i punti critici che non vanno giù ai sindacati, quindi agli insegnanti. E anche ci sarà spazio per le bandiere blu, già si comincia un po' a prevedere l'estate, cosa si farà, se qualcuno organizza le vacanze, così saprete quali sono i posti migliori in Italia dove godersi il mare. La mia voce, come vedete, è ancora, insomma, un po' così stentata, però vi accompagnerò come sempre fino alle 22. Un sacco di argomenti ci sono, quindi inizio con la sintesi della giornata. Scuola, rottura tra governo e sindacati che accusano modifiche insufficienti, annunciano nuove possibili azioni di protesta. Pensioni, domani arrivano le raccomandazioni dell'Unione Europea, Effetto Notte il giudice emerito Sabino Cassese. Nepal, nuova forte scossa nel paese, morti e crolli a Kathmandu. Ebola, positivo al test un infermiere italiano di emergency, attivato l'iter per l'isolamento. PD, Renzi attacca la minoranza, no alla sinistra masochista, dice, e Civati annuncia un referendum contro l'Italicum, così cancelleremo i nominati, commenta. Spiaggia, assegnate le bandiere blu, la regina italiana 2015 è la Liguria. Arte, Picasso record all'asta, 179 milioni per le donne di Algeri. Sport per la Champions, in campo Bayern Monaco, Barcellona, domani c'è Real Madrid Juventus, e per il ciclismo il Giro scopre la stella Formula. Naturalmente vi ricordo che anche stasera, come tutte le sere, potete intervenire attraverso due canali, che sono la pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì per voi qualsiasi momento dell'anno, del giorno e dell'ora, oppure in diretta, oppure potete scrivere i vostri sms al 349-238-6666. Se avete voglia di partecipare, diciamo, alla vita collettiva, naturalmente anche la scuola è un argomento centrale. Cosa ne pensate degli aspetti principali di questa buona scuola, della riforma del governo Renzi? Poi sentiremo il sindacalista, ma insomma potete esprimere le vostre opinioni se siete fatti un'idea su quello che va bene e quello che non va bene, almeno dal vostro punto di vista. Però partiamo appunto proprio da questo, dal governo, dall'incontro tra governo e sindacati sulla scuola. Il risultato è un nulla di fatto, perché i rappresentanti sindacali si sono detti, come dicevo, insoddisfatti delle modifiche al disegno di legge La Buona Scuola e hanno annunciato possibili iniziative di protesta dopo il grande sciopero, vi ricordate, di alcuni giorni fa. Tra queste iniziative anche il blocco degli scrutini. Dal canto suo la ministra dell'istruzione Giannini definisce l'incontro la dimostrazione concreta che il governo continua a dialogare, ma aggiunge: il governo sui punti qualificanti del DDL scuola non ha la volontà di fare passi indietro. Poi ne parleremo, vi dicevo, con un rappresentante sindacale. Ma c'è un altro grosso nodo, continua a essere un nodo da sciogliere: le pensioni. Il governo appunto se ne deve occupare, il ministro Padoan ha annunciato a breve un decreto, mentre anche del tema ha parlato Renzi a Repubblica TV. Il governo cerca di venire fuori dal pasticciaccio delle pensioni, il pressing dell'Unione Europea su Palazzo Chigi è evidente, si chiedono all'Italia misure per compensare l'impatto della sentenza della Consulta sui conti pubblici. L'Italia deve restare nel braccio preventivo del patto, sia per il margine di sicurezza sul deficit, sia per l'obiettivo di medio termine. Il ministro dell'Economia Piercarlo Padoan promette un intervento a giorni. Il governo sta lavorando a una soluzione che minimizzi l'impatto sulla finanza pubblica e che permetta di continuare a rispettare, come è già scritto nel DEF, tutti i parametri di finanza pubblica. Questo è il dato importante. Intanto il Premier Matteo Renzi interviene sulla questione: rispetteremo la sentenza, ma non dobbiamo restituire tutto, così a Repubblica TV. Noi verificheremo che cosa dice la sentenza e discuteremo. La sentenza non dice che è obbligatorio restituire tutto. Perfetto. Può darsi che la sentenza offra dei margini. Il Premier critica poi gli altri partiti che hanno comunque votato la legge Fornero, ma da Forza Italia e dalla Lega il coro è unanime: Renzi restituisca il mal tolto. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E poco prima della trasmissione ho chiesto al costituzionalista e giudice emerito Sabino Cassese un parere sulla sentenza della Consulta, che appunto questa avete aperto la voragine delle pensioni con gli adeguamenti da restituire. Giudice Cassese, quindi che cosa ne pensa di questo rebus delle pensioni? L'Unione Europea continua a sollecitarci, no? di trovare una soluzione velocemente e che non metta di nuovo a repentaglio i parametri che dobbiamo rispettare. Ma la questione non è delle pensioni, ma è la questione del finanziamento delle pensioni. Certo. Diciamo che per uscirne occorre interpretare una sentenza della Corte, la quale ha detto che occorre una rivalutazione, non ha detto quale rivalutazione è necessario fare. Quindi a questo punto occorre dare un seguito alla decisione presa, adottando una forma di rivalutazione in modo tale che i pensionati non rimangano sempre nello stesso punto. Ci sono diverse opzioni aperte e tra queste opzioni bisogna scegliere. Secondo lei è stata opportuna questa sentenza, in questo senso che ha messo, anche se giustamente in difficoltà, il governo, i conti pubblici, perché si parla di un buco di vari miliardi, ancora non è chiaro. È difficile parlare di opportunità o inopportunità, diciamo che c'erano altre opzioni aperte e che la mia preferenza sarebbe andata per un'opzione che avesse creato meno difficoltà in una situazione economica così difficile. La ringrazio, giudice Cassese. Ricordo che tra l'altro ha appena pubblicato un libro, Dentro la Corte, visto che lei è giudice emerito della Corte Costituzionale, professore emerito nella Scuola Normale Superiore, conosce bene insomma l'ambiente, l'ha vissuto e si sarebbe comportato diversamente, quindi lei, giudice Cassese? Avrei optato per un'altra soluzione, certo. Grazie ancora. Di niente. Buona continuazione. Grazie. Adesso invece passiamo all'estero, al Nepal, dove è tornata, scusate la paura, con una nuova forte scossa e nuove vittime. Il bilancio provvisorio parla di 49 vittime e oltre 1000 feriti in Nepal, mentre altri 17 morti si contano in India, perché il sisma è arrivato sino a New Delhi, almeno uno in Tibet. La nuova scossa, arrivata all'ora di pranzo locale, è stata la più forte dal terremoto del 25 aprile scorso, che ha devastato il paese provocando la morte di quasi 8000 persone. Una nuova scossa che ha terrorizzato una popolazione già duramente provata. Andrea Iacomini, portavoce UNICEF Italia. Il panico è enorme ed è diffuso, quindi è chiaro che accanto all'aiuto umanitario oggi ci troviamo a dover di nuovo affrontare un'emergenza che è psicologica ancor prima che pratica, che umanitaria. Il sisma di magnitudo 7.4 ha colpito un'area di 76 km a est di Kathmandu, mentre quello del 25 aprile scorso avvenne a una distanza simile ma ad ovest della capitale. Il nuovo terremoto, spiegano i geologi, è avvenuto all'estremità orientale della faglia che si era attivata il 25 aprile ed è anche possibile che si sia attivata una faglia adiacente. Molti edifici già pericolanti sono collassati, in montagna ci sono state nuove frane slavine, l'aeroporto della capitale è rimasto chiuso per precauzione per circa 2 ore. Agire, che Nepal riunisce le ONG non governative italiane, lancia l'allarme: crescono i danni, le vittime, i feriti e i rischi di epidemie. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora questa notizia che arriva dalla Libia: il ministro dell'informazione del governo libico di Tobruk, cioè il governo riconosciuto a livello internazionale, ha comunicato: nelle prossime settimane arriveranno in Italia anche terroristi dell'ISIS a bordo di barconi di migranti. E sul fronte dell'immigrazione sarà presentato domani il piano europeo di ripartizione delle quote. Il giorno prima della riunione a Bruxelles della Commissione sull'emergenza migranti, eccoli arrivare i dati Eurostat sui richiedenti asilo per il 2014. Si parla di circa 185.000 rifugiati accolti dall'Europa, il 50% in più rispetto al 2013. Circa 2/3 degli status di protezione sono stati concessi dalla Germania, in testa con 47.600 accoglienze, più 82% rispetto al 2013. A seguire la Svezia con 33.000 accoglimenti, Francia-Italia, con 20.600 persone accolte, dati sui quali si ragionerà anche domani, mentre verrà presentato il piano sull'immigrazione. Al centro il tema della redistribuzione obbligatoria dei migranti, già discusso e rifiutato dalla grande maggioranza degli Stati membri dell'Unione Europea nel corso del Consiglio straordinario sull'immigrazione di quasi un mese fa, e da allora non molto è cambiato. Gli schieramenti sono rimasti fermi nelle loro convinzioni. Gran Bretagna, Finlandia, Svezia, Ungheria e Polonia e Paesi Baltici si oppongono, mentre Italia, Francia, Spagna e Germania sono favorevoli. Domani in Commissione si parlerà dunque di quote, con un meccanismo di assegnazione costruito incrociando i dati di PIL, popolazione, tasso di occupazione e migranti già accolti. Quote che si rivolgeranno solo ai richiedenti asilo, che sono una minoranza rispetto a quelli che sbarcano. Consideriamo poi che i non richiedenti asilo invece resteranno a carico del primo paese in cui vengono registrati, come accade adesso. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E si torna a parlare di Ebola, perché è risultato positivo al test un infermiere italiano di Emergency. Sono state attivate le procedure di emergenza da parte del Ministero della Salute. È in buone condizioni, dicono. L'operatore è stato ricoverato da 48 ore all'ospedale di Sassari e adesso in attesa di trasferimento al centro specialistico Spallanzani di Roma. Ora invece questo studio sul costo del lavoro, le differenze tra nord e sud nel rapporto Svimez che è stato diffuso oggi. Tra il 2011 e il 2014 un lavoratore assunto a tempo indeterminato al sud è costato circa 550 euro in più rispetto ad uno del centro-nord. È quanto stima la Svimez, l'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno, in uno studio di prossima pubblicazione sulla rivista economica del Mezzogiorno. La Svimez spiega che nel periodo osservato i risparmi delle imprese per un neoassunto ammontano a 10.954 euro al centro-nord e a 10.407 euro al sud. In particolare, negli anni 2011-2014 le continue manovre di modifica dell'IRAP hanno ridotto il costo del lavoro al centro-nord di 2.592 euro e al sud di 2.263. La minore efficacia delle misure fiscali continua e si aggrava nel 2015 con una riduzione del costo del lavoro di 8.362 euro al centro-nord e di 8.144 al sud. La manovra IRAP, la decontribuzione degli oneri sociali e il Jobs Act non basteranno, spiega ancora la Svimez, a rilanciare la domanda di lavoro soprattutto al sud. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo alle spiagge, non all'ultima spiaggia naturalmente, speriamo salgono 280 dalle 268 del 2014 le spiagge italiane premiate dalle bandiere blu della FEE, la Foundation for Environmental Education, per un totale di 147 comuni costieri. In testa in questa classifica 2015 c'è la Liguria, poi la Toscana e poi le Marche, poi ne parleremo in modo più approfondito dopo. Adesso questa notizia del mondo dell'arte: Picasso, record all'asta, 179 milioni per le donne di Algeri, il dipinto del 1955 dell'artista andaluso che supera ogni primato per le vendite all'asta. Scusate, in 11 minuti di offerte a New York sono stati battuti i record detenuti da opere di Bacon e di Munch, ma il più caro resta comunque Giocatori di carte di Cézanne, venduto privatamente per 250 milioni. E per chiudere c'è il nostro Dario Ricci che ci aggiorna sulla Champions di oggi e poi dopo più tardi anche quella di domani. Sì, Roberta. Ciao Dario. Ciao. Un bel pacchetto di milioni e di euro anche sul piatto di chi vincerà questa Champions. Intanto, di fatto, la Coppa dalle grandi orecchie ha scelto la sua prima finalista, perché siamo appena al trentesimo all'Allianz di Arena, di Monaco, e il Barcellona, già forte del 3-0 dell'andata, è in vantaggio per 2-1 sul Bayern che pure era passato in vantaggio dopo appena 7 minuti con un colpo di testa dell'ex udinese Roma Benassia, che aveva fatto pensare nell'impossibile rimonta. Poi una doppietta di Neymar al 15esimo e al 29esimo, in entrambi i casi Suarez si è trasformato in uomo assist, ha ribaltato il risultato e di fatto chiusa la partita. Qualificazione fatta per il Barcellona, che aspetta a questo punto il fischio finale e poi la vincente di domani di Real Madrid-Juventus. E allora aspettiamo di risentirci con Dario Ricci dopo, e invece volevo vedere ancora i vostri messaggi al 349-238-6666, così anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Rosi dice: l'invidia di Civati non ha fine, a proposito dell'annuncio del referendum per abrogare l'Italicum. Clotilde invece dice: il fiorentino ancora non ha capito che la sua parabola è già in fase discendente grazie anche alla buona scuola e alle liste sporche delle regionali. E poi sulla pagina Facebook di Effetto Notte vedevo già i vostri messaggi invece sulla scuola, vediamo se li ritrovo. Eccoli qua, Floriano che scrive: guai toccare i sindacati ora, come ora contro Renzi sono tornati unitari, sentono puzza di bruciato. Stefano dice: per una vera educazione libera, viva i contributi alle paritarie, nella speranza finalmente che della scuola decidano presidi ancorché manager e non esponenti di sindacati. E poi lo ringrazio per il saluto. Bene, continuate sulla pagina Facebook di Effettonote, gli sms al 349-238-6666 su cosa vi piace o non vi convince di questa riforma della scuola. A tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Tra poco ve le ricordo le notizie. Se avete acceso la radio in questo momento, invece di accenderla puntualmente alle 21 quando inizia Effetto Notte, vedevo ancora Cristiano sulla pagina Facebook di Effetto Notte che scrive a proposito della buona scuola, di quello che vi piace o che non vi piace: in linea di decisioni interne ed esterne tutto somiglia, dice Cristiano, a una desolante e reiterata privatizzazione, presidi manager a decidere destini e incarichi e paritarie allineate con fondi statali non inferiori. Cioè, non posso pensare a migliaia e migliaia in piazza giorni fa che vaneggiassero come sessi. Poi ne parleremo tra poco. Intanto, quali sono le notizie principali della giornata? Ecco. Modifiche insufficienti, questo è quello che dicono i sindacati dopo l'incontro col governo oggi sulla scuola. Si va verso il blocco degli scrutini e per quanto riguarda i test invalsi gli studenti li boicottano e la ministra Giannini attacca su questo argomento, dice inaccettabile. Renzi invece attacca la minoranza del PD, ancora sempre il travaglio interno al partito, no alla sinistra masochista, dice Bersani, lo attacca, il premier mistifica, la Lega intanto ha l'ex cavaliere Berlusconi, dice fatti da parte. Pensioni, l'Unione Europea avvisa l'Italia, bisogna mantenere i margini sul deficit, ma Padoan, il ministro dell'economia, assicura presto ci saranno delle misure. Migranti, l'Unione Europea decide, l'Italia decide domani per quanto riguarda il piano per l'immigrazione, un piano che riguarda anche il rebus delle quote dell'accoglienza. Ebola positivo al test, un infermiere di emergency a Sassari era rientrato da pochi giorni dalla Sierra Leone. E poi trema ancora il tetto del mondo, 59 morti in Nepal per un'altra scossa forte, crolli e frane, panico fra la gente, vittime anche in India. E poi un anticipo su domani, il Festival di Cannes, domani parte con un trist del cinema italiano, Garrone, Moretti e Sorrentino in gara. Il Nepal, dicevamo, come se non bastasse, dopo la scossa terrificante del 25 aprile, questa strage infinita di persone o di un paese distrutto, oggi c'è stata una nuova scossa di magnitudo 7.4 che ha colpito il paese, una decina di morti si contano anche in India e per quanto riguarda il Nepal ancora una sessantina di nuovi morti, numerosi crolli di palazzi, le frane, le slavine, panico, vi potete immaginare, fra la popolazione che aveva appena cercato di riprendersi dallo shock terribile del 25 aprile. Ne parliamo con Stefano Zannini, che saluto, buonasera. Buonasera a tutti voi. Che è il direttore del supporto alle operazioni di Medici Senza Frontiere. Che aggiornamenti ci sono, Zannini, dalla parte appunto la scossa di oggi, i nuovi morti dal 25 aprile, i soccorsi, la parte nord che era quella più difficile da raggiungere, a che punto è? Sì, diciamo che questa scossa, per quanto preventivata fosse, ha lasciato un po' di sgomento nella popolazione, soprattutto nelle zone rurali, che sono quelle più colpite e con accesso più difficile. Noi siamo riusciti a sorvolare oggi in elicottero diversi villaggi attorno alla zona dell'epicentro e purtroppo ci siamo confrontati con situazioni abbastanza difficili, quindi interi villaggi che erano stati risparmiati dalla prima scossa sono stati rasi al suolo. Stiamo cercando di intervenire, ma purtroppo l'accesso a queste zone non è sempre semplicissimo. Ma si può dire che da allora la situazione, almeno per alcune famiglie, per alcune zone, è migliorata o c'è ancora bisogno di tutto? Insomma, è passato poco tempo in effetti. Sì, è passato ancora troppo poco tempo per poter parlare di ripresa e di recupero. Da un punto di vista prettamente medico è chiaro che gli interventi chirurgici salvavita delle prime 72 ore, 4 giorni erano terminati e si stava intervenendo ora in maniera un po' differente. Però ripeto, migliaia di persone continuano a vivere purtroppo al di fuori delle loro case, continuano a vivere in condizioni igienico-sanitarie abbastanza precarie. Non dimentichiamo che stagione dei monsoni sta cominciando adesso e questo porterà con sé due problemi principali. Il primo, renderà più difficile l'accesso alle zone più remote, e la seconda cosa, renderà ancora più precarie le condizioni igienico-sanitarie della popolazione. Mi ricordo, come succede tante volte in queste grandi catastrofi, sin dall'inizio c'erano delle grosse polemiche sui soccorsi. A questo punto diciamo, c'è ancora, ci sono ancora organizzazioni che arrivano, ha raggiunto un livello abbastanza efficiente l'intervento dei soccorsi, oppure ci sono ancora grossi problemi? Guardi, quello che noi stiamo vedendo è una situazione abbastanza diversa a seconda che si guardi al Nepal, a Kathmandu oppure alla zona rurale. Nella capitale gli ospedali erano riusciti a far fronte in maniera molto efficace ai bisogni che c'erano e le attività di routine erano sostanzialmente ricominciate. Tutt'altra situazione invece nella zona rurale, dove, ripeto, l'accesso è estremamente difficile. Parliamo di diverse decine di villaggi con popolazioni anche molto ridotte e che però presentano dei bisogni molto molto importanti. Purtroppo queste zone richiedono una struttura logistica per poter intervenire molto importante, mezzi finanziari importanti, personale preparato per questo tipo di situazioni, e non sono moltissime le organizzazioni che possono contare su queste cose. Zannini, per chiudere, la gente comune, i comuni cittadini possono, italiani, possono fare qualcosa ancora? Guardi, noi come Medici Senza Frontiere non abbiamo voluto aprire una raccolta fondi speciale per il Nepal, perché abbiamo le risorse finanziarie per far fronte a questo intervento e non pensiamo sia corretto chiedere dei soldi quando li abbiamo già disponibili. È chiaro che però se dei privati cittadini volessero sostenere Medici Senza Frontiere, non solo le attività in Nepal ma in altri paesi, beh, possono sostenerci come al solito andando nel nostro sito www.medicisenzafrontiere.it e fare la propria donazione. Grazie Stefano Zannini, grazie e buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci. E continuiamo, io vi chiedo scusa per la pochissima voce che tiro su dal pozzo in questi giorni, ma insomma credo basti a farsi capire, e parleremo adesso di scuola, vi dicevo l'argomento piuttosto centrale stasera, anzi direi che è l'argomento principale. Adesso vedo una dichiarazione del sottosegretario De Vincenti all'istruzione che dice: sono sconcerta che a fronte di una manifesta volontà del governo di dialogare sulla riforma della scuola si risponda da parte di alcune sigle sindacali minacciando il blocco degli scrutini. Un'iniziativa del genere sarebbe irresponsabile perché colpirebbe unicamente studenti e famiglie. Quindi siamo appunto sulla scuola. Si è consumata oggi questa rottura tra i sindacati e il governo in questo incontro che era stato annunciato ieri in tarda giornata. CGL, CISL e UIL e altri rappresentanti dei lavoratori a Palazzo Chigi a fine incontro si sono detti insomma insoddisfatti. Abbiamo apprezzato gli sforzi del governo, ma gli emendamenti sono insufficienti, non modificano la sostanza, così commentano i sindacati, che quindi hanno bocciato le modifiche alla buona scuola, al disegno di legge del governo Renzi, dopo aver parlato direttamente appunto col governo. Quindi alla fine è stato un muro contro muro, ora si rischia di andare verso il blocco degli scrutini, come sentivate. La ministra Giannini definisce l'incontro dicendo è la dimostrazione concreta che il governo continua a dialogare, ma aggiunge: il governo sui punti qualificanti del disegno di legge sulla scuola non ha la volontà di fare passi indietro. Buonasera Rino Di Meglio. Buonasera. Coordinatore nazionale della Gilda, associazione professionale degli insegnanti. Allora le faccio sentire che cosa ha detto Renzi oggi quando ha parlato della scuola. Vediamo, scusi, se per caso Crozza sulla 7 parla anche lui di scuola o di politica. Un attimo. Predolin. Cioè, non se lo fida più nessuno. Quando si presenta e dice il suo nome, ormai si sente rispondere: ah sì, ho capito, la spalla di Apicella. Mi ricordo, sì. Parla ieri di Berlusconi o come... Come idea. Torniamo allora sulla scuola, Rino Di Meglio, e sentiamo Renzi che cosa ha detto che non è un ammortizzatore sociale per gli insegnanti. Dicono: ah, voi non state assumendo più gente perché è giusto, perché lo scegliete, ma perché siete costretti da una sentenza della Corte Europea. Falso. Noi assumiamo 100.000 insegnanti perché pensiamo che la funzione sociale dell'insegnante debba essere importante. Ma possiamo farlo soltanto se cambia il modello organizzativo. Non è che la scuola può essere un ammortizzatore sociale dove ci butto dentro la gente. Quindi il decreto, senza la riorganizzazione della scuola, non ci sarà decreto. E poi un altro passaggio dove parla dei precari, perché la questione dei precari insieme al super preside, insieme alla, anche le modalità di reclutamento e ai finanziamenti alle scuole paritarie sono tra i punti critici per l'appunto. Sentiamo. Larga parte delle contestazioni che ci sono su Twitter o su Facebook o nel dibattito è che una parte degli insegnanti precari, illusi dai governi precedenti, vorrebbero entrare tutti nella scuola. E non li puoi prendere tutti. Uno, perché nella scuola si entra per concorso. Chi ha fatto concorso o chi ha fatto le SIS, le scuole di specializzazione, che sono equiparate a concorso, hanno titolo giuridico per entrare. Ma non è che chi è stato due ore in classe ha titolo per entrare. Però non puoi pensare che improvvisamente prendi 400.000 precari e li metti dentro, perché la scuola non è l'ammortizzatore sociale per gli insegnanti. La scuola è la costruzione di educazione e di libertà per i miei figli. Rino Di Meglio, quindi, come commenta? Guardi, il Presidente del Consiglio parte da una cosa giusta, cioè dice non è che chi ha fatto due ore di insegnamento deve pretendere di andare in ruolo. E siamo d'accordo fin qui. E poi dice un'altra che non è vera, perché per esempio quando parliamo delle graduatorie a esaurimento, tutti quelli che stanno nelle graduatorie a esaurimento hanno superato un concorso, quindi no, questo è un fatto non vero. Non è vero che assume 100.000 persone, perché 50.000 si sarebbero assunti anche senza questo disegno di legge, perché è il turnover, cioè sono i pensionati, e sono gli 8.500 di insegnanti di sostegno previsti dalla legge del precedente governo che devono stabilizzare. Quindi sono 50.000 in più, che sono quei circa 5 insegnanti in più per scuole con cui si dovrebbe garantire la copertura delle supplenze, il potenziamento del tempo scuola e l'inserimento di tutta una serie di nuove materie, storia dell'arte, tutte cose apprezzabili queste, no? In cambio di questo il Presidente del Consiglio ci dà una mortificazione del ruolo degli insegnanti attraverso l'assunzione diretta fatta dal preside, attraverso la instabilità del posto di lavoro per tutti, perché diventano incarichi triennali, cioè quindi uno è di ruolo ma c'è un incarico triennale, dopodiché se non c'è il gradimento del dirigente fila via e va da un'altra parte, non si sa dove. Ma Rino Di Meglio, questa storia invece, che è uno, appunto, dicevo, degli elementi che più riscontrano attrito, diciamo, tra governo e rappresentanti sindacali e insegnanti, è la figura del super preside. Hanno il governo ha dimostrato, diciamo, volontà di ammorbidire questa figura così potente, oppure guardi, che dovrebbe assumere gli insegnanti, che dovrebbe premiarli, scegliere? L'hanno ammorbidita solo in un punto, che era una grande fesseria, lì dove nella prima versione si dava addirittura al dirigente scolastico la responsabilità della didattica, che oltre che essere incostituzionale, perché violava la libertà di insegnamento, era una pura fesseria, perché non si può pretendere che un preside risponda a quello che fanno 200 diversi insegnanti che insegnano delle materie che lui neppure conosce poi. E a parte questo, gli altri punti che più contestate quali sono? Beh, guardi, come dicevo prima, la questione dell'assunzione diretta da parte della scuola e non attraverso una graduatoria, che abbiamo anche qualche sospetto che sia leggermente incostituzionale nel pubblico impiego, e la questione degli albi, che adesso chiamano ambiti, dove si finisce perché si ha soltanto un contratto triennale. E la questione della stabilizzazione dei precari, dove noi diciamo una cosa semplice, non puoi dire bene io assumo questi, chiudo la graduatoria e chi ha avuto avuto, chi ha dato dato, no? I problemi ci sono, perché quelli che hanno lavorato più di 36 mesi, quindi rientrano nella sentenza, sono tanti di più, non so dire neanche il numero esatto, ma il governo potrebbe ragionevolmente fare un piano biennale, triennale, per assorbirli tutti quanti, sistemarli e porre fine al contenzioso. Senta, Alfano, il ministro dell'Interno, ha detto: io penso che non si debba arretrare fino a dare ai sindacati tutto ciò che chiedono, così ha detto RTL. Dice: tra le nostre storiche battaglie, per esempio, c'è quello della parità tra scuola statale e scuola non statale, che secondo noi rientrano entrambi all'interno del servizio pubblico. Questo è un altro punto, no? Mi sembra contestato. Io voglio ricordare che la Costituzione non dice esattamente così. La Costituzione si può sempre cambiare, ma quella vigente dice che enti e privati sono liberi di istituire scuole senza oneri per lo Stato. Questo dice la Costituzione. Quindi lei è contrario, favorevole, i sindacati è uno proprio dei punti di rimenti o è una cosa non tra le priorità? Guardi, insomma? È sicuramente un punto importante, non è tra quelli di rimenti, cioè quelli che toccano maggiormente sono quelli che, le ripeto, umiliano i docenti. Mi scusi, le faccio un esempio, l'emendamento che ha introdotto che nel comitato di valutazione del servizio dei docenti ci saranno il dirigente, due insegnanti e un genitore o uno studente o alle delle scuole dei più piccoli due genitori, no? Ma le pare normale che esista in qualche paese del mondo che la mammina o lo studente vadano a valutare il docente? A me non sembra che sia una cosa normale, non esiste in nessun paese del mondo questo sistema qui. Un docente è giusto che sia valutato, ma valutato da chi ne ha la competenza, cioè da altri docenti. Sul blocco degli scrutini che avete minacciato? Temo che se il governo continuerà come ha fatto oggi a non dare alcuna apertura sarà inevitabile. Guardi, ma non è qui il Presidente del Consiglio dice che difendiamo il potere sindacale, ma quale potere sindacale? Sono gli insegnanti che sono molto arrabbiati e che ci chiedono di fare qualcosa, e quindi il blocco degli scrutini, che lo consideriamo l'ultima arma possibile, perché ci secca, perché provoca disagi agli studenti e alle famiglie, ma se continuiamo su questa strada di completa chiusura da parte del governo diventerà inevitabile. La ringrazio intanto Rino Di Meglio, ricordo coordinatore nazionale della Gilda. Grazie. Buonasera. E buona serata. Filo di voce, voglio leggere qualche vostro messaggio. Alessandra, perfino in Francia il governo dona un contributo alle famiglie che optano per le scuole private, religiose, di ogni religione o laiche, stenneriane o della Montessori. Anna dice, insegnanti capaci non temono il merito, gli asini e il sindacato pure, perché perderebbero potere contrattuale. Alessandro scrive sulla pagina Facebook di Effetto Notte, col super preside che sceglie i professori, il lavaggio ideologico nei cervelli degli alunni diviene totale. Quindi varie posizioni, tra la pagina Facebook di Effetto Notte, anche i vostri messaggi al 349 238 6666, ma è il momento di prenderci una piccola ricreazione. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Siamo sempre insieme, Roberto Giordano con voi, voi con me sino alle 22 come sempre qui Effetto Notte. Sto guardando anche i vostri messaggi a proposito sempre della scuola. C'è Domenico che scrive, parliamo tanto di Europa ma cercare di imitare il modello di scuola funzionante di altri paesi dell'Unione non sarebbe una brutta idea, anziché fare le solite cose all'italiana. E poi gli altri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Ma adesso i titoli. Scuola, rottura tra governo e sindacati, ne abbiamo appena parlato, sindacati che accusano modifiche insufficienti e annunciano nuove possibili azioni di protesta. Le pensioni, domani arrivano le raccomandazioni dell'Unione Europea. Effetto Notte abbiamo sentito il giudice emerito Sabino Cassese che ha detto che avrebbe optato per una sentenza che avesse tenuto presente l'attuale situazione di crisi economica. Nepal, nuova forte scossa nel paese, morti e crolli a Kathmandu. Spiagge, assegnate le bandiere blu, tra poco ne parleremo. E per lo sport, per la Champions in campo Bayern Monaco Barcellona domani, Real Madrid e Juve. Spiagge immense da sola te. La classifica delle nostre spiagge, questo è il tema di adesso, premiate dalle famose bandiere blu, quelle assegnate ogni anno dal FE, il Fondo per l'Educazione Ambientale, organismo internazionale. Quest'anno premia 147 comuni rivieraschi in Italia per 280 spiagge complessivamente, e la regione è la Liguria, come ci confermerà Claudio Mazza, che saluto. Buonasera Mazza. Buonasera. Presidente della Fondazione per l'Educazione Ambientale Italia. Quindi la Liguria è prima in classifica? Sì, si ha confermato questo titolo di essere prima anche quest'anno con 23 località, 23 comuni, quindi è cresciuta di 3. Stanno lavorando bene, devo dire tanti comuni stanno iniziando il percorso di certificazione bandiera blu, quindi poi anche questi 147 alla fine è la punta dell'iceberg, sono tanti comuni che oramai stanno lavorando seriamente sulla qualità ambientale. Mazza, però spesso ci si chiede, non è che con questi criteri con cui si valutano le spiagge italiane alla fine si bada più, che so, alla raccolta differenziata, che pure è importantissima, all'efficienza della depurazione delle acque, gli spazi verdi, e non tanto alla qualità del mare? Guardi, il primo paletto di accesso per ottenere questa certificazione è la qualità delle acque. la qualità delle acque deve essere classificata come eccellente in un calcolo del percentile degli ultimi 4 anni. Quindi sulla qualità è il primo punto. Chiaramente la depurazione è il secondo ed è, come dire, la qualità dell'acqua spesso è conseguente al livello di depurazione di depuratore e quindi anche che sia giustamente misurato per i picchi estivi. E poi ci sono tantissime altre cose, appunto, come lei diceva, la gestione dei rifiuti, la gestione del territorio, gli accessi, sono tutte cose che concorrono per far sì che una località sia sostenibile interamente. L'acqua è comunque, la qualità delle acque è proprio il primo punto di accesso. Poi ci sono, ripeto, gli allacci fognari devono essere almeno dell'80%. Sono veramente molti gli indicatori che vengono utilizzati in modo molto oggettivo. Quindi complessivamente, Manza, ce la caviamo bene? Direi di sì. In questi anni il trend è sempre stato positivo. Non bisogna fare, come dire, avere grandissime aspettative immediate, ma c'è una crescita costante, c'è oramai una cultura in termini ambientali che è diventata comunque propria oramai di tanti amministratori locali. Ma la bandiera blu non è un, come dire, un premio all'amministrazione, è il referente principe, l'amministrazione comunale, ma non raggiunge il risultato se non c'è il concorso di tutta la comunità, di tutta la cittadinanza, perché una località, ripeto, in tutte le sue sfaccettative pure deve raggiungere la sostenibilità, che poi per una località turistica, di Verasca in particolare, l'ambiente è, come dire, l'aspetto cardine proprio dell'offerta turistica, e oggi il mercato internazionale del turismo richiede sostenibilità. Chiaramente, e sempre di più. Grazie Claudio Mazza. Grazie. Grazie a voi. Buona continuazione. E viabilità. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. In pochi secondi le più importanti sono quelle che riguardano la scuola, con l'incontro che è andato a buon fine tra governo e sindacati che dicono modifiche insufficienti e minacciano anche il blocco degli scrutini. E poi pensioni, l'Unione Europea avvisa l'Italia, bisogna mantenere i margini sul deficit, ma Padoan assicura che presto ci saranno delle misure. E per i migranti l'Unione Europea decide domani soprattutto sulla questione delle quote. Ebola, positivo al test un infermiere di Emergency che è rientrato a Sassari dalla Sierra Leone, ma subito sono scattate le procedure d'emergenza. E poi un nuovo scossa di terremoto in Nepal con altri morti, una 50 di morti, crolli e frane. Europa 24 notte. Parliamo di migrazione minori, sono 7.000 minori non accompagnati che ogni anno arrivano in Italia sui barconi, dall'inizio di quest'anno già 3.500, minori che spesso in mancanza di un'adeguata assistenza psicologica e giuridica diventano facile preda della criminalità organizzata e finiscono per allontanarsi quindi dalle strutture di accoglienza. Ma cosa cambierebbe per loro col nuovo piano sull'immigrazione che domani verrà discusso al vertice europeo? Alessandra Schepisi ne ha parlato con Valerio Neri, direttore generale di Save the Children in Italia. Noi siamo favorevolissimi alla distribuzione per quote, anche obbligatoria, e troviamo anche un discreto coraggio in questo momento della Commissione di proporre addirittura delle quote obbligatorie, anche se, lo dico sinceramente, io dubito che passerà questa roba delle quote obbligatorie, ma anche se non passa è un segnale importante per far capire che almeno la Commissione, quindi non i rappresentanti dei singoli stati, ma i rappresentanti della Federazione Europea, credono che non sia corretto che se ne faccia carico solo l'Italia, ma si distribuiscano secondo delle modalità da trovare. Tengo a sottolineare che io non conosco neanche un ragazzo migrante, faccio questo lavoro da 8 anni, che mi ha detto che voleva rimanere in Italia. Tutti questi ragazzi hanno un progetto migratorio che li porta a nord, li porta comunque in Svezia in gran parte, in Norvegia, in Germania. E anche qualcuno vorrebbe andare in Inghilterra, dico vorrebbe andare in Inghilterra perché sappiamo quanto l'Inghilterra sia chiusa, quindi la vediamo molto bene, anche se la vediamo molto difficile che passi veramente. E poi c'è anche l'ipotesi di questo asilo europeo, in modo da combattere un po' questi spostamenti clandestini da un paese all'altro, insomma. Sì, lì bisogna ritoccare questa legge che si chiama la Dublino, che ha una norma che crea veramente tantissimi problemi, cioè la Dublino dice che qualsiasi migrante è entrato in qualsiasi parte del territorio europeo, identificato lì debba essere riportato anche se si muove all'interno della comunità europea, e quel paese che l'ha ricevuto per primo è quello che se ne deve fare carico in tutta la procedura, se è richiedente asilo perché richiede asilo, se deve essere rimpatriato perché deve essere rimpatriato, insomma, qualsiasi sia il caso. Ora, nel caso per esempio dei minori migranti, questo è un grandissimo problema, perché i minori lo sanno, ormai sono anni, e quindi non si vogliono far identificare. Quindi, se possono, la prima cosa che fanno appena arrivati in Italia è scappare dai veri centri, perché loro sanno che una volta identificati non potranno più andare a nord. Ora, capite che dei ragazzi che magari hanno 14-15 anni e sono costretti a scappare sul territorio italiano è un grosso problema per loro, perché possono essere, sono invisibili praticamente, quindi chiunque può fare di loro quel che vuole. Purtroppo abbiamo anche casi pesanti a questo riguardo, ragazzi obbligati a lavorare nel sud a raccogliere i pomodori, o ragazzi inseriti nel traffico della prostituzione maschile in qualsiasi delle nostre città, compresa Roma, Milano e Torino. Quindi un problema per i ragazzi molto grave, e quindi è proprio una norma grave che lesiva dei migranti e dei ragazzi, ma anche un pochino, diciamo, stupida a livello europeo. Dietro c'è sempre questo protezionismo egoistico che è un po' da struzzo, no? È quello che crede di proteggersi mettendo la testa sotto la sabbia, non vede il problema, ma prima o poi il problema gli arriverà, magari in maniera ancora più acuta, addosso. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. Anche se manchi tu. E no, un po' di cielo effettivamente ce l'hai portato via Mia Martini, quando 20 anni fa se n'è andata, il 12 maggio del 1995. Sono passati 20 anni da quando Mia Martini, interprete intensissima e di grande umanità, di veramente capacità ineguagliabili, di canzoni bellissime, indimenticabili, se n'è andata. Ma era morta da sola, in casa sua, l'avevano trovata stesa sul letto, anche se avevano detto che aveva un viso sereno. Però la sua vita, la sua carriera non sono mai state semplici, è passata sempre da un estremo all'altro, com'è classico anche di una personalità come la sua. Ne parliamo con Giancarlo Governi, che saluto. Ciao Giancarlo. Ciao. Scrittore, giornalista, regista, autore televisivo, grande conoscitore di personaggi del cinema, dello spettacolo, italiani e stranieri. Giancarlo, come mai dopo 20 anni dalla morte di Mia Martini, a differenza magari di altri interpreti, di altri cantanti, eccetera, è sempre così amata, è sempre così presente? Ma guarda, io penso che nei confronti di Mia Martini ci sia una sorta di rimorso collettivo, cioè quello di non averla amata e celebrata abbastanza. Finché era viva, dici? Sì, perché è una che ogni tanto, anzi ogni poco, ci regalava una perla, una canzone straordinaria, che ci sorprendeva e che poi finiva per entrare inevitabilmente nel nostro immaginario, nella nostra playlist, no, come si chiama adesso, come la chiamate voi della radio, no? Nella playlist, lista di ideale, canzoni, no? Collettiva, della nostra memoria collettiva, no? E poi dopo, una volta rientrava nell'ombra, da dove era venuta, fino alla prossima canzone, fino alla prossima perla. Secondo te era il pubblico che ogni tanto lo osannava e poi la dimenticava, o era lei che con questa inquietudine, che anche ha avuto una biografia anche dell'infanzia molto difficile, poi anche la sua vita ha continuato tra luci e ombre, no? Era lei che magari si ritirava, poi ci credeva di nuovo e tornava, o era il pubblico che era così un divo? Non lo so, guarda, no, questo veramente è un mistero, è sempre stato questo personaggio. Sicuramente era fragile, no? Di grande sensibilità, nonostante tanti amici. Era una che cercava cercava l'anonimato, cercava cercava l'ombra, no? Gli piaceva stare nell'ombra, non si metteva mai in mostra, forse aveva avuto grandi dolori, grandi passioni che non si erano mai sopite fin dall'infanzia, gli amori, non sappiamo niente dei suoi amori, non fossati, mentre, forse no, si racconta un po' di fossati. Di un'altra grande cantante come Mina, sappiamo tu come Mina, come Milva, come quella, sappiamo tutti i suoi, gli uomini, i figli, cose eccetera, di lei non sappiamo niente, io non so niente di lei. Si parla giusto di Ivano Fossati, no? Per quanto un rapporto difficile con suo padre, so che ha avuto un rapporto difficilissimo con sua sorella, che è un'altra grande cantante, e poi ogni tanto ci regalava queste perle che ancora adesso io non le stavo ripassando, no? Nella mia memoria, perché sapevo che mi avresti chiamato, ma qui ci sono dei titoli che fanno accapponare la pelle, come La nevicata del 56. Bellissimo. Una bellissima Califano, canzone di Califano, che poi Califano lei presentò al Festival di Sanremo con un testo completamente cambiato, perché questa era una storia d'amore di Califano per una ragazzina che poi dopo, che lui amerà per tutta la vita, che sarà il suo grande amore, mentre invece lei racconta la sua storia di bambina nel 56, no? C'è suo padre, oppure gli uomini non cambiano. Giancarlo Governi, io ti ringrazio e ti abbraccio, grazie per questo ricordo. Grazie per avermi fatto ricordare questa grande. Ciao. Ciao Giancarlo.